rispose lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che in la mente m'è fitta, ed or m'accora la cara e buona imagine paterna di voi nel mondo, quando ad ora mi insegnavate come l'uomo s'eterna, e quant'io l'abbo in grado, mentre io vivo, convien che nella lingua mia si scerna. Ciò che narrate di mio corso, scrivo, e serbolo a chiosar con altro testo, a donna che il saprà, sa lei arrivo. Tanto voglio che vi sia manifesto, pur che mia coscienza non mi garra, ch'alla fortuna, come vuol, son presto. Non è nuova agli orecchi miei tale arra, però giri fortuna la sua ruota come le piace, e il villan la sua amarra. Lo mio maestro allora in sulla gota destra si volse indietro e riguardommi. Poi disse, ben ascolta chi la nota, né per tanto di men parlando vommi, con ser Brunetto, e dimando chi sono di suoi compagni più noti e più sommi. Ed egli a me, saper d'alcuno è buono, degli altri fia laudabile tacerci, che il tempo saria corto a tanto suono. Insomma, sappi che tutti fur cherci e letterati grandi e di gran fama d'un medesmo peccato al mondo lerci. Priscian sen va con quella turba grama e Francesco da corso anco, e vedervi s'avessi avuto di tal tigna brama colui potei che dal servo de servi fu trasmutato d'arno in bacchiglione, ove lasciò li mal protesi nervi. Di più direi, ma il venir e il sermone più lungo esser non può, però che io veggio là surge il nuovo fummo dal sabbione. Gente vien con la quale esser non deggio. Siati raccomandato il mio tesoro, nel quale io vivo ancora e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona al drappo verde per la campagna, e parve di costoro quegli che vince e non colui che perde. Fine del canto 15.